queste parole sono scritte da chi non ha visto più il sole per amore di lei. Io le ho trovate in un campo di fiori sopra una pietra. Lei era bella, era tutto per lui. Poi venne un altro e la strappa di mano. Cosa poi sia successo lo capite anche voi. Ho difeso, che finisce così sopra una pietra che la pioggia bagnò. Son tornato una notte